Leone. Questa sera credo vada in onda a 25 o'clock intorno alle 22:30. Intanto io vado a salutare Nicola Locci di Stigmate in Sardegna, al pari di Maia, Giovanni Lisi di Cordis Cinti Serpente, storico progetto ritualistico industriale pugliese, Sirena Velena di Cronaca Nera, la salutiamo. E poi Nadir Persegona di Os, Tabula Rasa, Cristiano Bocci di Chemical Resistance, Dario Enrighi e Sara K.O. Fontana di Progetto No Name. That's De Carlo da Boston di Violet Knox. Poi Rosa La Vita, realtà sperimentale italiana, Arianna Degni Lombardo di Noise Cluster. E poi Marco qui a Roma, Like Awake, naturalmente affezionato, e Ant Christ di Omicidio. Allora, oggi è 9 giugno e andiamo ad iniziare, come abbiamo fatto la scorsa settimana, con l'andare a riascoltare due tracce di Bosch per quanto riguarda Pavor Nocturnus, una nuova realtà di ambient scurissimo che incide per la Totem Schwan di Marco Valenti, una realtà milanese dietro la quale si nasconde Eugenio Mazza e dalla quale questa sera estraiamo Caduta dei Dannati e Inferno. Due estratti anche per questa sera riguardante Bosch di Pavor Nocturnus. E vado a leggere due righe proprio estratte dal profilo Bandcamp di questo artista milanese. Bosch è un lavoro ispirato alle opere del pittore olandese Hieronymus Bosch, un tentativo di trascrivere in musica la visionarità delle atmosfere e la conseguenza simbologia escatologica della sua pittura. Sono state selezionate 8 opere, delle quali derivano altrettanti brani musicali, caratterizzati da un amalgama eterogeneo di sonorità elettroniche che restituiscono i paesaggi, le figure e la dimensione onirica e spesso terrifica dei dipinti. Per ogni brano è stato inoltre realizzato un video, un percorso visivo che segue e sottolinea l'andamento musicale, guidando l'ascoltatore ed immergendolo nei minuziosi dettagli di ogni singola opera. Queste è dunque sono due parole dedicate a Bosch, realizzato su Diodron e Totenschwan Record. Buonasera Wurnus Eileen, anche loro hanno fatto un ultimissimo lavoro che spero di avere presto qui in radio. E vado a risalutare Nicola Locci alle prese con La Prole, messa a dormire, quindi si può dedicare al perdersi in prove tecniche di trasmissione. E vera e propria fuga, diciamo, onirica e sensoriale è anche l'ultimo lavoro di Jin Tsukushi Njobutsu, più legato alla cultura giapponese, diviso in 3 fasi. Ricordiamo, dietro Jin c'è Eugen Vintras, che vado anche a salutare. Dicevo, un album diviso in 3 fasi e della terza ed ultima fase ci ascoltiamo anche la ultima traccia, la numero 7. convincente prova di Gin, e non ne avevamo dubbi ovviamente. Eugen Vintras si chiama Sokushin Jobutsu, cattedrali dark ambient rette da questo artista veneto, e mi rifaccio anche alla definizione di Stefano Di Serio: gelidi movimenti senza soluzione di continuità, si sprofonda. Rende bene l'idea, ma il potere evocativo di queste note è talmente forte che anche i vulcani in eruzione messi da Isetual, che vado a salutare, sono, come dire, in armonia anche con queste sonorità così profonde. Saluto anche Lucia Cagliazza in arte Lupsi. E adesso ci facciamo questo viaggetto consueto in Sud America. Andiamo in Perù e ovviamente stiamo per andare nell'antologia di musica sperimentale, Anthology of Experimental Music from Peru, della Nesplay Sound Group Production di Raffaele Pezzella. Storica presenza ormai qui a Prove Tecniche di trasmissione, e stasera vi propongo tre brevi tracce di altrettanti tre artisti, naturalmente ai più credo sconosciuti, e cominciamo con José Rodríguez con Vistiendo a un Hombre Muerto, poi QSN1097 con SH, e poi Wilder González Agreda con Zugerzeit. Quasi jazz, la frammentazione glitches sullo sfondo per José Rodriguez con questa Vistiendo a un hombre muerto. Traccia tipiche ma efficacissima di questa compilation di Raffaele Pezzella. QSN 10-97. La frastagliata e disturbata SHSH di QSN 10-97, che fa da prologo a questa Zuckerzeit di Wilder Gonzalez Agreda. Thank you. tre momenti di alta sperimentazione d'avanguardia provenienti dal Perù, quel Perù che non ti aspetti. L'Anthology of Experimental Music from Peru, Peruvian Music Survey, la classica formula e titolo di questi compendi ideati e assemblati e stampati da Raffaele Pezzella. Anche questa è una compilation molto interessante. Più in là ci andremo anche a ascoltare la scena proveniente dalla Cina, altrettanto interessante. Ma sono tante le uscite che provengono da questa etichetta napoletana. C'è anche Portraits, un'opera a tre. Della quale parleremo presto, comunque con Daniele Ciullini, il buon Gasparotti. Ma non anticipiamo troppo. Intanto ci dicono che a Milano suonerà Pavor Nocturnus, il buon Eugenio ha fatto il vago, grazie a Isetual che ce l'ho detto qui in diretta, e per chi magari è di quelle parti, sabato prossimo se lo può andare a vedere. Per quanto riguarda invece qui Roma, stiamo organizzando qui a sostegno di Radio Onda Rossa intorno a metà luglio un concerto di Last Syndicate, progetto diciamo electro-industrial di Spiritual Front al Forte Prenestino, quindi quando sarà ufficiale ve lo diremo, ma stiamo come dire organizzando il tutto. Ce ne andiamo invece dalle parti di Bologna con Rosa La Vita e soprattutto dalle parti della Totenschwen, che ritorna fuori anche nel caso di questa artista, soprattutto delle arti visive, ma anche appassionata di basso. È infatti il basso, le linee di basso, che sono assolutamente protagoniste insieme al catturare i rumori di ambiente. Sono questi due elementi principali di Tools. Stasera ci ascoltiamo Hung Engine e l'ultima traccia dal nome Cat. Era dunque Tools di Rosa la Vita e c'è stato un involontario remix della settima traccia, Engine. Il lettore ha avuto un lieve tic. E comunque non è che fosse così malvagio in fondo. Chiedo ovviamente scusa a Rosa e comunque era Tools, questo ultimo lavoro per Rosa la Vita. Questo che sta andando invece è un lavoro precedente dal nome Key insieme a Naresh Ran, che ci ascolteremo la prossima settimana. Saluto anche Mariano in quel di Berlino e anche Alessandra al confine con l'Abruzzo. Lasciamo questo bel basso saturo effettivamente e ce ne andiamo nell'elettronica industriale di MDS 51 e da Incubus ci andiamo ad ascoltare ormai un album che conosciamo bene. Ci ascoltiamo In the Face of Death e Ausgang. Of this E terminava in questo modo la catena di montaggio Incubus MDS-51. Gli impeti elettronico-industriali di questo duo proveniente da Berlino che ci siamo gustati parecchie settimane qui a prove tecniche di trasmissione. Intanto sono le ore 22. Chi sta scrivendo con me questa sera commentando questa trasmissione avrà notato, ma ormai è molto tempo che succede, che non è facile comunicare via Facebook, perché si, diciamo, i commenti si sfalsano. Io vedo ricompaiono diciamo commenti di inizio trasmissione, per esempio, e quindi chiedo anche scusa se magari mi perdo qualche cosa, ma come vi sarete accorti anche voi c'è parecchio caos nella casa di Zuckerberg. Ma è importante che ci sia la musica, per cui abbiamo ritirato fuori con un minimo di malinconia Last Live di Mika Vainio, che come dice il titolo è l'ultimo live di questo artista morto nell'aprile del 2017, un concerto che si tenne a Ginevra nel febbraio di quell'anno. Un concerto diviso in quattro movimenti.